Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago. Una persona che esce da un'auto rubata, mettiamo una potente BMW dell'epoca, siamo al Giambellino, quindi la terra di Ceruttigino, e scende vestito con una pelliccia di lupo. L'uomo cammina tranquillo sul ciglio della strada, scarpe ricoperte di polvere e l'aria di chi ha tutto il tempo del mondo a disposizione. Ogni tanto si guarda intorno con naturalezza, passeggia e tiene una mazza ferrata e una calibro 9 infilata nella cintura. Il poliziotto è quello che non soltanto si trova di fronte ad esempio alla città in fiamme dopo Piazza Fontana, ma è quello che negli stessi periodi, al sabato o la domenica, si metteva l'elmetto in testa e andava a fare da scorta ai cortei o studenteschi o degli operai. Vista con gli occhi di oggi, sembra avvolta dal manto di un'epica nera, quella Milano criminale, dove i banditi si prendevano la città con la forza e i poliziotti si dividevano tra il sangue delle gang e gli albori del terrorismo. Una Milano spesso evocata e attaccata, una Milano ereditata e ora anche raccontata come un'epopea, appunto, in Milano criminale, l'ultimo libro di Paolo Roversi. Se è vero che allora l'Italia stava per perdere la sua verginità, se è vero che tutto cominciò allora, tra gli anni 60 e 70, Storiacce stavolta affonda nel passato e torna ai tempi della Ligera, quando personaggi e correnti diversi si mescolavano per capire quale eredità abbia lasciato. Partiamo appunto nel 58 con questo rapina di via Osopo per vedere anche come si è evoluta la malavita, perché nel secondo dopoguerra la malavita era quella che veniva chiamata la leggera, la leggera, un po' guascona, un po' sicuramente senza armi se non dei residuati della guerra, e faceva queste rapine al volo ai camion fermi ai semafori. Con la via Osopo abbiamo cominciato ad avere delle bande che agivano per rapinare, quindi ogni quartiere aveva le sue, ma erano ancora in nuce. Via Osopo non c'era stato niente e hanno cominciato dopo ad organizzarsi, come la banda Lutring, che agiva diciamo in maniera molto simpatica tra virgolette rispetto al fatto che comunque rapinava, perché si presentava ad esempio con un mazzo di fiori dalla gioielliera e lei prendeva in mano i fiori, sotto c'era la pistola. Poi c'è stata un'accelerazione, abbiamo cominciato con le cosiddette batterie, le bande armate. La più famosa, tristemente famosa, è stata la banda Cavallero, che da Torino è arrivata a Milano, quella che ha inventato la triplice, la tris. Facevano tre rapine in tre banche diverse lo stesso giorno, la polizia arrivava nella prima e intanto loro avevano fatto le altre perché non c'erano i mezzi tecnici di adesso. E da quel momento hanno cominciato a organizzarsi le batterie, queste bande armate. C'era quella di Vallanzasca, poi ce n'erano diverse altre che operavano nella città. Da quegli anni si è anche sviluppato la gestione delle bische e della prostituzione, quindi la mappa criminale di Milano si divideva in tutti questi aspetti. C'erano le rapine, poi ci sono stati i sequestri, il famoso sequestro di Vallanzasca con la ragazza che si innamorò. Emanuela Trapani. Trapani. Emanuela Trapani, e lui si innamorò. E questo è quello che raccontò a Storiacce proprio lui, Renato Vallanzasca, il bel René, il bandito della Comasina. Al di là del fatto che io mi reputo irresponsabile, a prescindere tutto di quello che sono stato imputato, anche per un semplice fatto, visto che l'hanno chiamata la banda Vallanzasca e non la banda di Capocchietti, dico io mi chiamo Vallanzasca e quindi mi sento responsabile. Lei come ha raccontato perché per un tot di anni è stato il Vallanzasca della banda che ha compiuto omicidi, rapine, sequestri e che per questo si è procurato 4 ergastoli? Io non sono stato un killer, non sono mai stato uno che ha avuto mandati da nessuno. Ci sono state situazioni nelle quali sono successe cose. Per quello che mi riguarda personalmente, non parlo della banda, non ho mai sparato per primo e non ho mai sparato nella schiena a nessuno, quindi può essere poco, perché dice vabbè, in fin dei conti poi la gente l'hai ammazzata, diamolo pure per scontato. Però voglio dire, non c'era quella protervia, quella volontà criminale assassina, che se ti fanno male a tuo figlio, faccio un esempio, tu potresti avere la determinazione ad uccidere. Ecco, io questa determinazione ad uccidere non l'ho mai avuta. Sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo strada e tu ti prendi gioco di me. 27 febbraio 1958. L'uomo non era ancora andato sulla Luna, le passioni politiche non erano ancora degenerate in bande armate e il boom economico cominciava solo ad albeggiare. Quel giorno, però, in 5 minuti di una fredda mattina, la storia di Milano arrivava ad un suo spartiacque, quando in quella strada di periferia furono portate via valigie piene di 590 milioni di lire dell'epoca. Da allora, come racconta Roversi nella sua Milano Criminale, i profili dei banditi cominciarono a scalpellare nella memoria della gente. Una Milano sfaccettata su tutti questi vari tipi di criminalità, e in più mettiamoci che dopo sarebbe nato il terrorismo, c'è appunto il movimento studentesco, ci sono gli anarchici che ogni tanto saltano fuori nell'indagine di questo commissario, in una città in pieno fervore, perché c'era una città in cui c'erano i prodromi di quello che sarebbe diventato di lì a poco, da una parte il terrorismo rosso soprattutto, ma anche nero, dall'altra parte il filone degli anarchici, su uno sfondo di un cambiamento sociale economico della città. Abbiamo citato alcuni dei quartieri, ecco, ma volevo proprio chiederti quali sono i quartieri dove la Milano criminale diciamo operava di più. Beh, sicuramente il Giambellino, perché era proprio una fucina di talenti, voglio tra virgolette, in quel ramo. Poi c'era Ambrate, la Comasina, ma direi che anche il centro cittadino era teatro dei crimini, perciò via Fate Bene Fratelli è un po' il fulcro di tutte le cose, quindi non direi che c'era soltanto un luogo, ma c'erano tanti luoghi, loro inseguivano i soldi. Ad esempio, una delle bische più famose era in Galleria Meravigli, quindi in centro, un'altra era in Corso Sempione, però c'erano sicuramente dei quartieri che erano i loro punti di ritrovo, erano il punto da cui partiva anche l'organizzazione di queste bande. Ora che in questi giorni, nelle cronache anche recenti giudiziarie, si parla molto di una spartizione anche del territorio milanese sulla base anche di controllo delle famiglie malavitose, soprattutto calabresi, questo lo si tratteggia in particolar modo in una suddivisione degli affari. In che modo invece nella Milano criminale degli anni 60-70 soprattutto, ecco, i vari territori delle varie bande erano controllati? In che modo i confini erano tracciati tra i vari gruppi? Certo, c'era il quartiere, il qua di Vanzacchi si chiamava la banda della Comasina, perché la Comasina era il suo feudo, o anche l'Ambrate o anche il Giambellino, però diciamo che c'era per rame di attività le bische, ad esempio, che erano controllate da Turatello, era lui il deus ex machina. Infatti le lotte poi che ci sono state tra lui e De Paminonda, ad esempio, col famoso poi omicidio a Bado Carros, erano per il controllo di quel settore. Mi ricordo questo episodio, ad esempio, di Lutrin, che lui va a rapinare una banca e il cassiere gli dice: ma ancora, siete venuti 10 minuti fa? No, non eravamo noi, erano degli altri. Quindi, per dire che comunque c'era un mercato libero per tutti. Però c'erano anche delle regole ben precise, 2-3 per flash principi a cui in qualche modo, o regole che tra loro vigevano, per esempio vietato lo sgarro, vietato il tradimento. Sì, cioè se tu eri un soffia, quindi un infame che parlava con la polizia, non eri più rispettato e meritavi le peggio cose se ti mandavano al 2 San Vittore, il 2 veniva chiamato San Vittore. Ma gli stessi poliziotti disprezzavano questi soffia, no? Perché erano comunque degli infami, esatto. E poi c'era questo rapporto di guardie e ladri, nel senso che un rispetto che si è perso poi con le bande armate, ma che è sopravvissuto, io penso, fino quasi agli anni 70, in cui tu stavi da una parte della barricata, io dall'altra. Se tu mi arrestavi, poliziotto, hai fatto il tuo lavoro; se io ti sfuggivo, avevo fatto il mio. L'importante è che gli inermi, gli innocenti, rimanessero fuori da questo. Con la banda Cavaliero questo non avviene, perché sparano all'impazzata sulla folla e muoiono diverse persone, ecco. Anche per esempio Vallanzasca a noi ha detto: non ho mai sparato alle spalle, non ho mai sparato per primo, non agivo su commissione. In questi quartieri che hanno caratterizzato, che hanno visto il loro nome affiancato così tanto alle bande criminali che sono state espressione del loro quartiere, che tipo di tracce ha lasciato quel passato? Tu li hai anche riattraversati e li hai anche rifilmati e documentati, ecco. È passato talmente tanto tempo che direi molto poco. Forse l'unico che ancora, in cui aleggia il mito di Vallanzarco, comunque di questa criminalità, e del Ceruttigino e il Giambellino. Dovete pensare che una volta, ad esempio, al Giambellino, ma anche alla Comasina, era vicino alla campagna, cioè c'era il Dazio, dopo Piazza Tirana, che era la piazza dove crescevano questi Ligera, questi ragazzini che andavano a fare le carbone, che erano i furti in appartamento con destrezza. Iniziava la campagna e la nebbia entrava prepotente in città, quindi Milano non è più così. Via Osoppo c'è ancora lo spartitraffico, ma c'è il mercato, c'è un parcheggio. All'epoca invece c'era un terreno quasi agricolo, perciò è cambiato il tessuto urbanistico e sociale della città, e quindi anche quelle tracce forse evocative di quel passato criminale si sono un po' quantomeno attutite. Forse è rimasta, c'era questo cimitero della Mala dietro l'ippodromo nel parco intorno a San Siro, dove si racconta che Paminonda andasse a sotterrare i suoi nemici, e quindi magari ancora lì a che parte ci sarà qualche cadavere. Ci potrebbe essere ancora degli, diciamo, delle tracce, degli elementi nuovi che, diciamo, potrebbero andare a raccontare ancora quel passato criminale. Ma di alcuni di questi banditi si è continuato a parlare, e per tanti elementi sono diventati, come tu stesso dici, delle figure epiche, anche perché sono stati poi emulati successivamente. Quali di questi soprattutto ha lasciato nelle future generazioni criminali una propria traccia, e in che modo? Io ho in mente un'immagine, ed è Vallanzasca che è in prigione a Rebibbia, ed ha come vicino di cella, insomma nello stesso carcere, c'è anche Turatello. E siccome loro sono tagliati fuori dai giochi, sono in prigione, non sono neanche nella loro città, che è Milano, si inventano un modo per conquistare le prime pagine. Si inventano questo matrimonio in cui si inventano che fanno la pace loro due, infatti diventeranno, il loro rapporto cambierà. Vallanzasca sceglie una donna, la sceglie proprio perché lui riceveva qualcosa come 800 lettere al giorno, sceglie una donna che diventerà sua moglie, e Turatello gli fa da testimone, arriva lo champagne, arriva una torta di diversi piani. Quindi questa è proprio un'operazione mediatica che gli ha fatti entrare di diritto nell'epica, secondo me. È proprio pensata per durare, per rimanere. Angelo Epaminonda, uno dei nomi quasi epici di quella Milano criminale. Ad arrestarlo e ad occuparsi della sua collaborazione che fece saltare gli equilibri tra le bande fu Antonio Scorpaniti, per 20 anni alla sezione omicidi della squadra mobile milanese. All'epoca criminalità organizzata legata ai catanesi e ai cursoti che gestivano qui a Milano, oltre che il traffico di stupefacenti, anche le bische catanesi, che facevano poi capo ai Paminonda Angelo, che fu uno dei primi pentiti di questi anni. Esatto, e a proposito proprio appunto di Epaminonda, che cosa significò l'inizio della collaborazione? Fu arrestato nel 1984 in via Silva, peraltro era super ricercato da diversi anni. Epaminonda, dopo un mese di detenzione, decise di cominciare pentirsi, di collaborare più che pentirsi. Che cosa rappresentava momento, diciamo, una collaborazione di un personaggio importante? No, era un cambiamento basilare quello lì, perché era la prima volta che un personaggio che era depositario di tanti segreti, collaborazione sua, riuscimmo a dare nome a una sessantina di omicidi. Vi raccontò anche un po' il sistema della gestione? Ma certo, come spiegava spesso lui, c'era arrivato perché gli avevano attribuito l'omicidio di Turatello, al quale lui non aveva minimamente preso parte, nemmeno a livello di mandante. Però tutto questo, come amava dire lui, gli ci è servito per fare carriera. E nel suo racconto di che cosa rappresentasse per loro Milano? È una piazza ambita, dove circolava più denaro che in altri posti, e dove sicuramente uno poteva trovare più possibilità di affari. Era un'altra Milano, con una sua filosofia sintetizzata da Roversi in un personaggio, il Molosso. Una Milano che però ha lasciato tracce in quella che sarebbe venuta poi. Il Molosso è un dispensatore di filosofia criminale in questo senso. Tutti i criminali si ritrovavano in certi bar, c'era il famoso Crimen Bar di Via Novara, per dire, quando arriva la banda Cavallero a Milano, che nessuno li conosce, all'inizio nessuno che ci capisce niente, al che a un certo punto dicono devono venire da fuori, perché altrimenti lo sapremmo noi. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, sul sito www.radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sul nostro blog e sulla pagina Facebook di Storiacce. Ciao a tutti, a sabato!